Senta Presidente, posso farle un'obiezione? Ieri in una striscia di quelle a fondo teleschermo su Sky, prima dell'assegnazione dell'Expo del 2015 a Milano, c'era scritto Prodi tutta l'Italia dietro Milano. Poi è arrivata l'assegnazione e lei ha detto merito nostro, non di questo governo. Non è un po' un controsenso spaccare ancora l'Italia su un tema così? No, scusi, mi hanno fatto una domanda diretta e mi hanno detto allora è tutto merito di Prodi? E io alla domanda diretta, visto che mi ero impegnato e come nel dare una mano alla bravissima signora Moratti che ha il merito vero di avere portato avanti questa azione su scala internazionale, tuttavia io le sono sempre stato accanto, ho ricevuto i delegati e ho con i delegati mantenuto sempre rapporti importanti e cordialissimi e poi sono intervenuto in moltissimi casi su moltissimi paesi, addirittura facendo cambiare la loro posizione, ultimi paesi, ma è antipatico fare dei nomi, ma insomma ho messo in campo tutta la mia amicizia, i miei legami con i diversi capi di Stato per far sì che votassero per l'Italia dopo che invece Smirne e la Turchia avevano fatto delle démarche importanti su di loro conquistandone il voto. Quindi sentirmi dire che tutto e soltanto merito di Prodi ha portato in me una logica e dovuta reazione che poi i giornali come al solito hanno strumentalizzato e hanno messo come una mia uscita estemporanea, non invece quella che è stata la risposta a una provocazione. Senta Presidente, sono arrivate decine di email, perché sono un paio di giorni che noi diciamo che oggi lei sarebbe stato nostro ospite. Ne leggo una di Carlo Comi della provincia di Venezia, è un signore che alla fine in un post-scriptum dice: quando potrà mi saluti Don Zuliani, era direttore del collegio Astori di Movigliano Veneto dove hanno studiato i miei figli. E le chiede questo, poiché invece nonostante i miei 5.000 euro di pensione sono preoccupato per il futuro, cosa che non avrei mai pensato di dover fare, le chiedo perché dovrei votarla. Io avevo fatto molto conto sul rispetto del contratto con gli italiani in maggio 2001 con particolare riguardo all'abbattimento della pressione fiscale. Bene, mi sa che questo signore, che ringrazio per i saluti a Don Zuliani a cui mi unisco anch'io, visto che sono legato a Don Zuliani da grandissimo affetto e ho avuto con lui una grande consuetudine per un lungo periodo anni, mi spiace che questo signore non abbia seguito il lavoro del mio governo. Forse abbiamo sbagliato noi, non siamo stati capaci di comunicarli, ma intanto sulla politica estera io avevo dedicato il 50% del tempo e alla fine, puntando anche su quello che è il carisma di un tycoon che a me era riconosciuto, non ero nei rapporti con gli altri capi di Stato e di governo soltanto l'uomo politico, ma era anche un uomo che aveva costruito qualcosa nella sua vita e che era stato a capo di un gruppo importante che aveva fondato lui, e questo certamente contava, oltre anche alla capacità personale di stabilire rapporti di cordialità, di amicizia, di rispetto e di stima. Ma a parte questo, ci eravamo presentati agli italiani con i 5 punti del contratto famoso con gli italiani. Avevamo detto che avremmo diminuito la pressione fiscale, l'abbiamo fatto e siamo stati l'unico governo che dal 1968 ad oggi ha diminuito la pressione fiscale. Questo governo l'ha aumentata portandola al record del 44%. Secondo, avevamo detto aumenteremo le pensioni più basse. L'abbiamo fatto, abbiamo aumentato le pensioni a 515, poi a 535 e poi a 560 euro al mese per 13 mensilità a 1.850.000 pensionati, di cui la sinistra si era semplicemente dimenticata durante i 5 anni del suo governo. Avevamo detto creeremo le condizioni affinché possano nascere nuovi posti di lavoro. Risultato ottenuto, sono nati 1.600.000 posti di lavoro, molti per i giovani, 500.000 per le donne. Avevamo detto interverremo per aumentare la sicurezza dei cittadini, abbiamo istituito la polizia di prossimità, il carabiniere, il poliziotto di quartiere, là dove è stato possibile applicarli i reati sono caduti del 30%, soprattutto i reati più odiosi, i reati di strada, gli scippi, le rapine, la prostituzione, lo spaccio di droga, e abbiamo fatto operazioni che hanno assicurato alla giustizia molti latitanti delle organizzazioni criminali, le operazioni famose che erano l'operazione ad alto impatto contatto e vie sicure. Abbiamo fatto le grandi opere, aprendo 76 cantieri, realizzando, iniziando e terminando più di 1000 chilometri di strade e investendo 7 volte quello che il governo della sinistra aveva investito in attrezzatura nei precedenti 5 anni. Abbiamo anche fatto le riforme strutturali nella nostra architettura istituzionale, sono 36 differenti riforme, e vorrei ricordare ancora quello con cui, di cui abbiamo parlato poco fa, abbiamo dato vita a 12 codici eliminando migliaia di leggi. Quindi credo che non solo c'è stato un record di essere durati 5 anni, ma che c'è stato un lavoro enorme che speravamo di poter continuare ancora con un'altra legislatura. Speriamo adesso, nonostante i guasti enormi prodotti dalla sinistra con questo suo malgoverno, di poter riprendere il lavoro interrotto nel 2006.